Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Massimo Anselmi. Buonasera. Massimo Anselmi, amministratore delegato di Stirnovo, una società che ha, diciamo così, recuperato un grande marchio, una grande storia, e parliamo di un libro scritto da Decio Carugati, ma un libro essenzialmente iconografico, che racconta la storia di queste lampade, di queste luci, di questo design italiano che ha percorso un po' questo secondo dopoguerra, che è stato un po' abbandonato negli ultimi anni e che adesso, appunto, Massimo Anselmi con la sua società tenta di rilanciare. Massimo Anselmi, questo libro rappresenta un po' la prima pietra di questa nuova avventura. Ma sì, diciamo che l'Electa ha dedicato a Stirnovo uno spazio dentro la sua collana di bestseller sui marchi e i brand italiani. A noi ha fatto molto piacere, in quanto questo volume poi è diffuso nelle migliori librerie di design del mondo, per cui finirà in mano, me lo auguro, ad architetti che poi saranno interessati ad acquistare la collezione iconica che abbiamo presentato allo scorso Salone del Mobile. Oggi è in produzione. La campagna vendita è già iniziata, con consegne la prossima primavera, quindi siamo proprio nel pieno della battaglia. Quindi rilanciate un marchio, rilanciate uno stile, rilanciate un marchio appunto prestigioso italiano nel mondo. Come le è venuta l'idea di riprendere in mano questa grande potenzialità? Ma diciamo che per motivi di lavoro frequento da diversi anni l'Asia, con un amico che si occupa già di distribuzione di brand di interior in Asia, e mi aveva chiesto di identificare un marchio importante, magari finito nel cassetto, da recuperare, perché c'è una fame continua di Made in Italy e di brand di design italiano. Quindi nel cassetto di un'azienda ho trovato questo marchio inutilizzato e ho detto: senti, eccolo qua, partiamo. Ecco, è un esempio questo, la storia che è scritta appunto da Decio Carugati, fa la storia di questo marchio, una storia un po' di un fallito passaggio generazionale. Dopo aver avuto un grande successo, non è riuscito questo marchio, questa società, a passare di mano e a essere appunto in mani capaci di mantenerla e di rilanciarla. Lei la prende in mano, ma qual è la continuità, diciamo così, storica, ma soprattutto architettonica, di design con lo Stirnovo degli anni 50 e 60? Ma diciamo che in sostanza il marchio Stirnovo è un marchio che è già conosciuto in tutto il mondo, perché ha diffuso molti prodotti in quegli anni, però è stato anche preso in mano da design illustri come Castiglioni, come Gioia Colombo, Sozzas, e noi partiamo proprio da questi, perché c'è una ripresa forte nell'interior degli anni 50, degli anni 60. Poi l'idea nostra, chiaramente, grazie anche a un comitato scientifico che ho voluto costituire proprio per proteggere e dare delle linee guida di progettazione dei nuovi prodotti, partendo e rispettando le radici, con questo comitato scientifico inizieremo a produrre anche prodotti nuovi, ma dentro un'identità ben precisa del brand. Ecco, ma come si può coniugare il recupero di una tradizione, di un vecchio, vecchio ma non certo vecchio come età o antico, ma un marchio storico e quindi un design anche storico, con una esigenza in fondo di modernità? Il design è in se stesso evoluzione legato appunto alla moda, al cambiamento di costumi, al cambiamento anche delle opinioni o delle modalità di vita dei consumatori. In questo senso, qual è il punto di congiunzione tra la realtà passata e quella nuova? Solo il nome? Ma no, certamente no. Il nome deve rappresentare anche Made in Italy nel nostro caso, no? Quindi abbiamo dovuto riattivare tutta una serie di artigiani, e quindi questo ci fa piacere, quindi di competenze ben qualificate. E l'altro input forte arriva dai mercati, basta sentire Gallery Van Den Hack di New York o Spencer Lydia di Sydney, che cosa pensano di Stirnovo e cosa pensano del design italiano di quegli anni. Loro nelle case d'oggi stanno inserendo ancora pezzi di quell'epoca che praticamente non si trovano più, e quindi qualcuno li deve pur rieditare. Quindi ecco, la nuova produzione sarà anche una produzione di vecchi modelli. Ah, partiamo con una collezione iconica, così ci ha chiesto il mercato estero, specialmente quello asiatico a cui ci rivolgiamo. Ci hanno chiesto di rimettere in pista le icone di quegli anni, degli anni 50, degli anni 60. Poi, chiaro, con calma, come azienda, inizieremo a sviluppare anche nuovi prodotti. Ma per il momento abbiamo abbastanza con materiale da rieditare, perché Stilnovo dal 46 ad oggi ha prodotto una quantità di pezzi ancora oggi molto attuali. Ecco, in questa prospettiva quello che sottintende, lei l'ha detto esplicitamente, è il fatto che il Made in Italy soprattutto nel design è ancora un elemento vincente sui mercati asiatici, ma anche su mercati fortemente industrializzati, fortemente evoluti come quello americano. Il Made in Italy è ancora questo elemento vincente, è la domanda che le faccio. Beh, assolutamente, anche perché come stiamo notando ultimamente, se non lo facciamo noi italiani, aziende asiatiche si comprano aziende italiane per produrre Made in Italy da vendere là. Quindi o lo facciamo noi o lo fanno loro. Ecco, ma la storia di Stilnovo è una storia appunto anche di un, diciamo prima, di un fallimento, di un passaggio generazionale. Come evitare che le aziende italiane si trovino di fronte a questi problemi? Come evitare che le aziende italiane possano appunto avere una continuità e un rilancio continuo? Quali sono gli ostacoli dal punto di vista suo, di imprenditore, che hanno le imprese italiane per mantenere questa competitività e questa credibilità? Allora, nella mia ovviamente piccola esperienza mi rendo conto che la fortuna di aver rilanciato Stilnovo sono le persone, sono gli uomini. Un'azienda è fatta da uomini, quindi la coincidenza per me è stata quella di trovare delle persone che hanno protetto questo marchio negli anni, non erano in grado di rilanciarlo, piuttosto di rovinarlo, l'hanno tenuto nel cassetto e protetto. È stata fortuna di incontrare qualcuno che si occupasse di vendita qualificata di Made in Italy nel mondo, è stata la fortuna di incontrare degli artigiani e dei light design che sanno produrre il Made in Italy, quindi la fortuna mia è stata semplicemente quella di mettere insieme delle persone, poi il resto spero lo darà il mercato come risposta, insomma. Ecco, allora, per conoscere appunto Stilnovo, la storia di questa azienda, una storia soprattutto attraverso le immagini dei suoi prodotti. E quanti prodotti ha fatto Stilnovo nella sua storia dal dopoguerra ad oggi? Centinaia di prodotti, perché dal 46 agli anni 80 ha prodotto un'infinità di collezioni, moltissime. Noi le abbiamo divise in due periodi, gli anni 50, dagli anni 60-70. Stiamo partendo adesso con gli anni 60, ma in primavera in Fondazione Castiglione presenteremo questa nuova lampada uscita dal cassetto, è un inedito di Castiglioni, una sospensione mai realizzata in sostanza, mai messa in commercio, fatta dalla Stilnovo e molto attuale. Quindi divertirsi a rimettere in piedi quello che è stato fatto. E come scrive appunto l'autore del libro, dell'introduzione della storia dello Stilnovo, un libro che peraltro è composto, è un peccato non poterlo far vedere in radio, di tutte le immagini di questi prodotti che hanno accompagnato questa azienda dal 46 ad alcuni anni fa e che adesso viene rilanciato, appunto come scrive Decio Carugati alla fine della sua introduzione, il brand nasce nel lontano 46, inesauribile potenziale, quando ancora oggi, negli anni 2000, Stilnovo testimonia il perpetrarsi di una leggenda del design italiano che speriamo sia un punto di forza per un'industria italiana che ha bisogno di ritrovare dei sentieri di crescita, di inventiva, di coraggio, di creatività e forse, speriamo di sì, Stilnovo può dimostrarlo. Abbiamo parlato con Massimo Anselmi, che ringraziamo. Buonasera, dottor Anselmi. Grazie a voi. Amministratore delegato di Stilnovo. Abbiamo parlato del libro, appunto, Stilnovo, edito da Electa. E dopo aver parlato di Stilnovo, di estetica, di Made in Italy, parliamo di una cosa un po' meno poetica, parliamo di finanza pubblica italiana. Il rapporto 2013, edito dal Mulino, a cura di Alberto Zanardi, docente dell'Università di Bologna, raccoglie alcuni saggi sullo stato della finanza pubblica italiana e le cronache sono piene dei problemi del bilancio pubblico, dell'esigenza di portare il più possibile verso il pareggio il bilancio e sull'esigenza di rendere efficiente abbattere la spesa pubblica e, se possibile, di ridurre le tassazioni. Allora, cosa c'è dietro tutte queste polemiche? Si può trovare in questo libro, La finanza pubblica italiana, in cui sono messe in luce non tanto e non solo i problemi, diciamo così, congiunturali, problemi di piccola calibratura oppure di azioni con il cacciavite, come le ha chiamate il primo ministro Enrico Letta, ma sono messi in luce i problemi strutturali, i problemi di fondo che rendono anche così difficile intervenire sul fronte del bilancio pubblico. Un esempio è quello, per esempio, del federalismo fiscale. Il federalismo fiscale, scrive proprio nell'introduzione Alberto Zanardi in questo libro, ha un bilancio francamente avvilente. Il corpus dei decreti legislativi per molte componenti fondamentali della riforma non si è ancora tradotto in una compiuta attuazione normativa a livello di atti amministrativi e tantomeno in una concreta operatività. Ecco, il federalismo fiscale è uno dei temi forti che hanno caratterizzato il dibattito politico di politica economica negli ultimi anni, e qui possiamo scoprire che se ne è parlato molto ma si è attuato poco. E questo cosa ha provocato? Ha provocato che le spese delle regioni sono cresciute in maniera spesso incontrollata e nello stesso tempo non sono diminuite le spese dello Stato centrale, e questo ha aggiunto spesa a spesa ma non ha aggiunto efficienza ad efficienza, anzi possiamo dire che ha portato a una complessiva inefficienza dell'una e dell'altra parte. E quindi c'è uno Stato, scrive Zanardi, ancora gracile della finanza decentrata uscita dalla riforma, e che è una riforma che peraltro negli ultimi tempi è stata attaccata, è stata intaccata da provvedimenti che avevano di mira appunto la soluzione di piccoli problemi ma senza una visione complessiva. Una visione complessiva che si può trovare leggendo questo rapporto sulla finanza pubblica italiana, lo ricordo, curato da Alberto Zanardi, edito dal Mulino, sono 260 pagine per 26 euro. Grazie, ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento è per sabato prossimo.